Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Buongiorno a tutti, bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon. In questa puntata, almeno nella prima parte della trasmissione, riporteremo l'intervista di Moreno Moretti con Stefania Cattagno. Stefania Cattagno, docente di arti pittoriche al liceo artistico Candiani, dove la professoressa ha spiegato ai nostri microfoni il progetto messo in atto con i ragazzi che ha ripercorso alcuni tra i racconti e fumetti del Pioniere, ovvero sia, per essere più precisi, Mario, figlio di immigrati, Lavoro di pace del 50, ancora del 50, Ragazzi negri di Canevari alla sceneggiatura e Kitta Marchi alla illustrazione. La trasposizione di quelle antiche narrazioni all'oggi non è risultata poi così difficile, perché quel personaggio di allora assomigliano magari al compagno di banco o all'amico della porta accanto. Un esperimento che riporta fino in fondo come quell'educazione del pioniere, quello degli anni 50 ancora, non è poi così lontano e inattuabile, anzi, può essere benissimo adattato dai ragazzi di oggi. Su questo inizia la nostra trasmissione, andando appunto al racconto di questa esperienza che si è snodato nella radio interna, una radio online interna all'istituto stesso. Siamo con Stefania Cattani del liceo artistico di Busto Arsizio e che si occupa di discipline, diciamo, artistiche e che ha fatto insieme ai suoi ragazzi, ai ragazzi della scuola, un lavoro molto interessante che è partito dal giornalino illustrato Il Pioniere. Ce lo puoi raccontare, Stefania? Sì, buongiorno. Come dicevi, lavoro al liceo artistico di Busto Arsizio, liceo artistico Candiani. E mi occupo per l'appunto di una materia di indirizzo, quindi di discipline pittoriche, una materia artistica e insomma che si presta bene al lavoro tra il disegno, interpretazioni anche attraverso diverse tecniche pittoriche di diversi argomenti e temi. Con i ragazzi per l'appunto abbiamo avuto la fortuna di cogliere questa opportunità che ci è stata proposta da degli esponenti della sede Ampi di Gallarate e per l'appunto Carlo Chinetti ci ha proposto questo progetto. Questo progetto nasce dalla conferenza che si è tenuta a Fondo Toce, conferenza alla quale abbiamo partecipato con i miei ragazzi di questa quarta SF, sta per figurativo, sono dei ragazzi che seguono il corso ad indirizzo figurativo e con i quali ho deciso di condividere questa esperienza. Ti dico, ho deciso di condividere questa esperienza perché inizialmente alla conferenza pensavo di andarci da sola. Poi invece discutendone con i colleghi abbiamo detto ma perché no, sarebbe proprio interessante farli partecipare e così nonostante i ragazzi non abbracciano sempre tutte le novità con entusiasmo, hanno detto ah ma dobbiamo andare fino lì, ah ma il sabato, ah ma qui, ma poi lì, in realtà poi la conferenza si è rivelata davvero molto interessante per la partecipazione dei diversi contributi. Quindi questo è il primo step, diciamo, il primo momento, la conferenza in cui era di fatto una conferenza proprio che metteva in evidenza questo giornale un po' dimenticato appunto che è il Pioniere, quindi il lavoro parte da lì. Poi voi come avete sviluppato per la vostra parte, diciamo, no? Quindi per quanto certo. Riguarda la parte, come dici tu, pittorica, ma non solo ovviamente. Certo, no, nasce da lì perché in quell'occasione abbiamo avuto proprio la possibilità di capire che cosa fosse esattamente il Pioniere, che cosa fosse esattamente e quali fossero i contenuti del Pioniere. Quindi la parte che ha interessato di più me come insegnante è proprio l'obiettivo anche educativo del Pioniere e ovviamente ho tentato di trasferire non solo questo ai ragazzi, ma ovviamente ai ragazzi ho tentato di far conoscere proprio quello che stava all'interno del pioniere, quindi le storie che venivano narrate all'interno del pioniere. Storie che evocavano ovviamente delle situazioni anche reali, voleva essere tutto quello che noi abbiamo letto all'interno del pioniere. Sono storie che ci hanno in qualche modo riportati anche nella nostra realtà e nella nostra realtà contemporanea. Quindi una lettura è vero di di testi che i racconti che sono stati scritti. Vi chiamo racconti, poi ovviamente quello che abbiamo letto l'abbiamo letto attraverso un linguaggio che è quello del fumetto. Quindi la nostra lettura quello che emerge poi dal fumetto è un racconto, è una narrazione, il linguaggio è quello specifico del fumetto, ma ovviamente poi il risultato è una storia. Quindi le storie che noi abbiamo riletto le abbiamo poi anche un po' contestualizzate. Vale a dire, infatti, il nome il titolo un po' del progetto era Il pioniere e le nostre riflessioni. Le nostre riflessioni, in quanto purtroppo, ahimè, quello che veniva proposto all'interno del pioniere, sono ancora storie che noi abbiamo avuto possibilità di riconoscere a casa nostra, nel nostro vicino di casa nel momento in cui andiamo a parlare dell'emigrato, cioè l'emigrato è proprio il nostro vicino di casa, quello che comunque ancora oggi paradossalmente è vittima di razzismo. Quindi voi avete trovato comunque questi racconti che vi erano proposti dal pioniere tematiche che tuttora, diciamo, sono ancora degli irrisolti, o comunque di questi temi, diciamo, c'è un'attualità. Anche i ragazzi hanno trovato ci fosse attualità assolutamente, sì. Assolutamente. Ma li hanno scelti loro i racconti o avete fatto un lavoro in classe collettivo? Cioè, avete Il lavoro in classe è stato proprio da me proposto e la gestione e la scelta degli argomenti è stata assolutamente libera da parte dei ragazzi, quindi ognuno ha lavorato prima innanzitutto hanno lavorato nella direzione del proviamo a conoscere, siamo curiosi, vogliamo capire quali sono i contenuti, quali argomenti emergono dai fumetti, no, che contenuti nel pioniere. Quindi ognuno si è un po' spinto nella direzione in cui si sentiva di volersi spingere e quindi poi da lì chi ha preferito il fumetto a sfondo fantastico, che poi contiene ovviamente ancora argomenti e mirati e che hanno comunque quell'obiettivo educativo di cui si parlava, e chi invece magari si è spinto proprio nella direzione più concreta dell'atto di bullismo nei confronti del ragazzo, che purtroppo, e ribadisco, abbiamo l'occasione di verificare e di vedere ancora oggi nel mondo della scuola, nel mondo nella vita quotidiana. Quindi ecco, quello che ha sorpreso me e i ragazzi purtroppo è vedere ancora queste cose. Dico purtroppo perché si pensa che l'evoluzione dei tempi e le cattive esperienze vissute in passato abbiano dovuto insegnare qualcosa, e invece ci ritroviamo punto a capo a combattere ancora e ad avere ancora bisogno di quella spinta educativa contro il razzismo, contro alcune problematiche che emergono oggi. Stefania Cattani, quindi questo è stato il vostro primo approccio, e poi naturalmente c'è però una progettazione che avete dovuto fare per rielaborare. Qual era l'obiettivo, diciamo, che si sono dati i ragazzi, che tu gli hai dato, che vi siete dati? Certo, insieme l'obiettivo iniziale era quello appunto di analizzare l'opera. Io la definisco opera in quanto complessa e in quanto avendo dei contenuti. Abbiamo analizzato l'opera, sondato e analizzato. Successivamente l'obiettivo era quello di, provando per l'appunto ad interpretarla, l'opera, era quella di rielaborarla, e quindi anche concettualmente, cioè di mettere insieme una ricerca storica rispetto al tema che i ragazzi avevano scelto e sviluppare proprio quei principi, quei concetti dai quali i ragazzi sono partiti e hanno anche rielaborato all'interno del fumetto che hanno preso come proprio punto di studio e di partenza. tutto il discorso. Questo è stato fatto proprio con fasi anche scandite, cioè da un'analisi a una fase più ideativa, quindi un momento di brainstorming, un momento in cui i ragazzi hanno provato a mettere insieme per associazioni libere anche dei concetti. Dopodiché la cosa interessante che purtroppo ci è sfumata e non abbiamo potuto realizzare era una concretizzazione di questo elaborato proprio a livello concettuale dei ragazzi in incisione. Era in programma, avevamo programmato lo sviluppo di un laboratorio di calcografia che purtroppo a causa dell'interruzione che abbiamo avuto a causa del coronavirus non si è potuta realizzare. Quindi per precisare, Stefania, quindi una attualizzazione, una rielaborazione in termini anche grafici ovviamente, un po' dei temi e soprattutto del segno. Certo, assolutamente, quindi quello che nasce come fumetto è stato, quello che è nato come fumetto in passato è stato rielaborato, rivissuto, quindi se ne è fatta una nuova esperienza e doveva diventare a livello di rielaborazione concreta e pratica un'incisione. Purtroppo, come ti dicevo, l'incisione non è stata realizzata a causa del fatto che non abbiamo potuto lavorare nel nostro laboratorio e abbiamo così ripiegato realizzando dei lavori attraverso una tecnica che i ragazzi hanno avuto la possibilità di scegliere in modo libero. Quindi non ci siamo voluti fermare, io non ho voluto fermarmi perché ho pensato che tutto quello che è stato fatto aveva un valore e ce l'ho ancora e doveva essere portato a termine anche per essere compreso al meglio. Per i ragazzi interrompere un lavoro come questo senza dargli la giusta continuità, senza dargli il giusto fine, sarebbe stato perdere qualcosa di prezioso. Quindi ho deciso di chiedere loro, nonostante la situazione, di terminare il loro progetto attraverso la tecnica che potevano utilizzare in quel momento, anche utilizzando i materiali che avevano a disposizione, perché purtroppo il grosso problema per molti dei nostri ragazzi è stato non poter reperire materiale a un certo punto, perché la carta, pennelli, tempere, colori, purtroppo a un certo punto durante il nostro periodo di reclusione forzato è diventato un problema anche quello. Quindi ho chiesto ai ragazzi di utilizzare il materiale che avevano a disposizione e di comunque portare a termine il progetto, che hanno dovuto in qualche modo ripiegare, cioè non hanno potuto mantenere l'idea iniziale perché la tecnica in qualche modo aveva anche una funzione, insomma era già stato pianificato un po' tutto, quindi hanno elaborato un nuovo progetto sempre sulla linea Sì, che però anche questo direi abbastanza interessante perché alla fine i giovani poi si sperimentano anche e riescono anche a cambiare strada, si sperimentano in obiettivi diversi e può essere interessante comunque, no, come esperienza. Stefania, dove possiamo vedere, i nostri ascoltatori possono vedere questi lavori? Assolutamente, si possono vedere sul sito del Liceo Artistico Paolo Candiani di Busto Arsizio. E ovviamente c'è un archivio in cui questi lavori si possono recuperare e sono stati raccolti e si possono vedere sul sito del Liceo Artistico Paolo Candiani di Busto Arsizio.